non è il podcasting. Non è la web radio. Non è il cane broccolone. È il blogcasting della domenica. Cari blogger vicini e lontani, oggi iniziamo subito parlando della nuova iniziativa che riguarda il cane broccolone. Insomma, ci diamo un po' all'egocentrismo, perché da più parti si è invocata la candidatura del blogger della domenica alle elezioni primarie del centro-sinistra, e ovviamente il blogger della domenica accetta, anche perché, come si dice, è sempre meglio che lavorare. Allora, cominciamo facendo una rassegna di quello che è stato questo dibattito iniziale sviluppatosi in questi giorni a partire da Enver e poi raccolto in particolare da Enrocco e Benti. Miei avvertite, è ora è tempo di dirsela in faccia. Le primarie sono uno sbaglio colossale, perché sono finte, calate dall'alto, astruse nel meccanismo. Pensate che si può iscrivere a votare anche gente di destra, anche Rutelli. È perché non compendiano alcun referente di quella che anacronisticamente amiamo chiamare sinistra storica. Noi, orfani di qualcosa che forse non c'è mai stato, siamo spaesati. E visto che crediamo nello strumento web come riscossa per ripartire dal basso e vogliamo dare voce alla base come ficarra e picone, abbiamo avuto l'ardire di lanciare questa proposta straordinaria, l'unica in grado di sparigliare i giochi delle segreterie dei partiti. Candidare e supportare un blogger, per davvero. Per davvero, intendasi, che non è una buttata scherzosa come quelle iniziative nate per gioco e subito lasciate perire. No, noi vogliamo almeno arrivare a che la notizia sia pubblicata su Repubblica e faccia discutere in transatlantico, non escludendo una domanda di Vespa, Pecoraro Scanio o di Pietro o Mastella sul candidato blogger. Certo, la ponderata iniziativa unilaterale è nata a tavolino, per l'esattezza un tavolino di una di quelle osterie di una volta, si chiama Maurizio, con esposte le vetuste bottiglie di vino ormai in aceto e i poster di squadre cittadine di troppi anni fa. Però è una cosa seria, almeno vogliamo che lo sia. Il prescelto su cui puntare dopo immediata disamina nei fatti eccetera eccetera si è individuato nel dottor Blog della Domenica, anche perché eravamo in due. Perché direte voi? Perché rispondo io? Perché come il collega blogger Prodi abita a Bologna e non è bolognese, perché pure il BDD viaggia in bici, per quanto lacera nella sella e bisunta nel telaio. Non è un mistero per nessuno che i primi fondi raccolti con PayPal serviranno all'acquisizione di una nuova bici per competere con Prodi fino alla salita di San Luca. Perché l'interessato si è detto disposto a bere l'amaro calice dopo aver già ingurgitato due amari spritz in meno di 10 minuti, mentre fuori, a partire dai muri timbrati dei portici, si preparava alla vera rivoluzione. Ma soprattutto perché il BDD ha dalla sua la grande stampa di nicchia chic nella quale è seguito e riverito. Beh, insomma, il raffinato esegeta, grazie al podcane broccolone, è protagonista primo dell'innovazione tecnologica e più della FIFA e meno del ministro Stanca, e in politica spicciola ha sempre tenuto una posizione equanime e consolidata, rigettando la sinistra metallara e al contempo detestando questa sinistra paninara. Andiamo al finale, a fianco del blog della domenica, per riaffermare che c'è solo un centro-sinistra d'avanguardia, senza più distinzioni tra indie blogger col trattino e indie blogger senza trattino, per una politica della domenica di nome e di fatto, un progetto che si barcamena tra Europa e nuovi mercati, tra Arcade Fire e Luciano Berio, sempre teso al bene comune, sempre teso al sociale, sempre teso a smarcare l'Italia dalle troppe energie degli M-blog stranieri, sempre teso, eccetera, eccetera. Il colore scelto per rappresentare l'area broccolona è arancione, come nelle traballanti oligarchie dell'Est, e come la nazionale olandese, il limpido modello di ogni rivoluzione. Pensateci, vincere le primarie, poi vincere le elezioni. Può succedere. In Italia. Ora. Subito. Adesso. Il contributo al dibattito dato da Errocco. Il meccanismo delle primarie è molto più di una semplice metodologia politica, è un vero e proprio scarto ideologico resosi necessario per traghettare finalmente la politica verso il nuovo millennio, abbandonando finalmente le scorie e i residuati tossici che la vecchia classe dirigente, immutabile come tutti i gattopardi della tradizione del nostro bel paese, ha prodotto, trasformando in privilegio di casta il meccanismo della rappresentanza e bloccando quindi un ricambio generazionale, inquinandolo alla fonte, che è la norma di tutte le democrazie occidentali. Il ricambio generazionale, non la fonte. Non si può che guardare ammirati al coraggio che il centrosinistra, senza trattini e inutili distinguo semantici, vuole immettere nell'asfittico e disilluso rapporto tra elettore e politico, così come è vissuto oramai i giorni nostri. Tuttavia c'è il rischio evidente di ripercorrere gli stessi sentieri da cui vogliamo allontanarci, producendo ulteriore rigetto che alimenterebbe pericolose demagogie, forzando la percezione comune delle cittadine e dei cittadini, se l'elettorato venisse solamente illuso di poter finalmente contare maggiormente. Non possiamo permetterci di lasciare l'arma spuntata ma efficace dei mestieranti della politica a questa destra, sempre più sotto amministrazione controllata da un solo azionista di riferimento che piega il Parlamento ai nostri fini personali, ai propri fini personali prima che politici. La nostra diversità, perché è questo quello che ci chiede il nostro elettorato e oso dire tutta l'Italia, la distinzione netta da quanto operato fino ad oggi dall'arroganza fascista forse tagliota, si compie non solo nell'idea di poter finalmente scegliere, ma si concretizza soprattutto nei meccanismi di questa scelta, che decretano senza se e senza ma un vero e proprio atto di democrazia dal basso, un'iniezione di fiducia che non potrà che far bene a tutto il centro-sinistra nella sua corsa verso il governo di questa nazione prima che sia troppo tardi. Non sarà certo passato inosservato ai nostri intellettuali e alle nostre classi dirigenti, sempre attenti al sociale e al civile, che oggi sono i weblog, le vere piazze, dove si incontrano, senza per questo volerle sostituire, ma anzi favorendo in un gioco di specchi riflessi quel senso di appartenenza ad un orizzonte comune, eccetera, eccetera, dove si incontrano, dicevo, le coscienze civili, nutrendole a base di confronti e le idee orizzontali, ma non più vincolate alle liturgie di partito, ormai distanti dal sentire comune. Va bene, andiamo al finale. La democrazia si costruisce dal basso, allargando la propria base alla maggior partecipazione democratica possibile, proprio come i blocchi. Non possiamo esportare democraticamente le solite facce nei collegi blindati e sicuri. Non possiamo garantire il posto fisso alle mogli e agli amici, come spesso avviene anche nel nostro schieramento. Basta con questi privilegi che ci fanno confondere in un inutile ma veritiero a tratti panorama condiviso con i nostri avversari. La scossa necessaria sono le primarie. Lo sappiamo e siamo felici di questo, ma è proprio per questo motivo che la candidatura sacrosanta del blog della domenica deve essere presa in considerazione seriamente e non semplicemente vezzeggiata e archiviata come simpatica azione metapolitica di colore da relegare in quei simpatici bollettini dell'idiozia obnubilatrice che sono oggi TG in Italia. Vi chiediamo serietà ed impegno, lo stesso che ci porta a chiedervi questa candidatura. La passione e l'amore incondizionato verso il nostro paese, lo sappiamo bene, ma è sempre meglio ribadirlo con forza. Comuni a tutti! There's no music on my radio. There's no music on my radio. There's no music on my radio. There's no music on my radio. There's no music on my radio. Bene, questo è l'inizio del dibattito riguardante la candidatura del blog della domenica alle primarie e credo che andrà a costituire l'ossatura di quella che poi sarà la nostra proposta programmatica, ovvero il chiosco del programma. Ma mentre aspettiamo di definire bene queste proposte, del resto c'è tempo, c'è tutta la campagna elettorale delle primarie, possiamo prendere fin d'ora alcuni esempi della sinistra che sicuramente non ci piace. Ad esempio quella descritta da Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera di oggi nell'articolo che si intitola "Più poltrone che consiglieri regionali, il miracolo della campagna". Una cosa è o mare, un'altra o Mediterraneo. La sfiziosa precisazione, che non mancherà di incuriosire i cultori del genere, è contenuta nell'elenco delle nuove commissioni istituite dalla Regione Campania, la quale, aprendo la strada a interessanti scenari, ha appunto deciso di dar vita a due organismi distinti, uno dedito alla risorsa mare e l'altro a quello che i romani chiamavano Mare Nostrum. Finalmente lottizzato, ci si passa il latinorum secondo precise percentuali, un po' nostrum, un po' vostrum, un po' lorum. Una poltrona non si nega a nessuno. Solo che questa volta a strillare indignati non sono soltanto gli oppositori parzialmente coinvolti nella spartizione, ma anche alcuni esponenti della maggioranza di sinistra. C'è o non c'è una benedetta questione morale? C'è chi dice di no. Everything you touch, you don't feel. continuiamo la lettura dell'articolo che appunto adesso passa in rassegna le varie opinioni all'interno della maggioranza della regione Campania, cioè della sinistra. Angelo Brancaccio, un diessino dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale campano, dice anzi che le durissime critiche di Fabio Mussi e Cesare Salvi al debutto gestionale di alcune regioni rosse, critiche fatte proprie almeno in parte da Piero Fassino, che l'altro ieri aveva invitato la sinistra a gestire il potere con più sobrietà, aperto il virgolettato di Brancaccio appunto, sono strumentali, demagogiche e volute più a posizionamenti interni al partito che non al merito stesso di una questione davvero delicata, chiuso il virgolettato. Insomma, cose di bottega, tutta dentro la quercia. Peggio, un di nuovo virgolettato ingeneroso e assolutamente irresponsabile attacco sferrato alla nostra regione, chiuse le virgolette. Ma c'è chi dice sì, cioè che c'è lottizzazione, come Luisa Bossa, già sindaco di Essino di Arcolano. Capisco che ormai siamo alla globalizzazione della stupidità, ma fare una commissione sul mare e una sul Mediterraneo, anche le mediazioni devono avere un limite. Lei ha votato contro e proprio non capisce. Per carità, dicono, di nuovo virgolettato suo, dicono che così, dando a Italo Bocchino, che fu candidato da Enne contro Bassolino, il ruolo ufficiale di capo dell'opposizione, con tanto di ufficio apposito, con dotazione di personale, auto e autisti, e distribuendo alla destra 6 presidenze, ci saranno meno problemi di ostruzionismo. Che anche la nomina alla presidenza del consiglio di Sandra Mastella è filata via liscia, come se già ci fosse un accordo prima. Che per il bene della regione bisognava pagare qualche prezzo. Però, riprende Stella, e mal di pancia dentro la sinistra in tutta Italia si moltiplicano, come si moltiplicano le accuse contro i compagni che sbagliano, meglio, i compagni che lottizzano. O almeno fanno buon viso a cattivo gioco, come nel Lazio, dove la maggioranza guidata da Piero Marrazzo, che nega tutto vantando tagli su tagli, è sotto accusa per aver aumentato gli assessori da 12 a 16, moltiplicato le commissioni fino al numero spropositato di 24, distribuito a certi neoassunti stipendi iperbolici, accresciuto il parco di auto blu e tentato addirittura di dare a Maria Coscia, assessore alla scuola del Comune di Roma, una collaborazione di 230.000 euro l'anno. Perfino Nicky Vendola, al quale tutto potevano rimproverare i duri e puri della nostra gauche, tranne indulgenze clientelari, è finito nel mirino per aver accettato, senza scatenare l'inferno, l'assunzione all'acquedotto pugliese, storico serbatoio di clientele fin dai tempi in cui Gaetano Salvemini diceva che ha dato più da mangiare che da bere, l'assunzione di 31 persone. Beh, una cosa è certa comunque, se ci fosse il cane broccolone al governo di queste regioni, queste cose non succederebbero. Ma c'è un'altra polemica che in questi giorni si è scatenata, ed è quella di Aldo Grasso contro Michele Serra. Come è stato commentato da Dago Spia, era ora che Aldo Grasso sbertucciasse il moralismo paraculo dei Michele Serra, cuore a sinistra, conto corrente a destra. Ma vediamo allora cosa scrive Aldo Grasso. Va giù duro Michele Serra contro la pubblicità, parla di colonizzazione pubblicitaria dell'Italia, descrive a tinte fosche un paese in cui la RAI è totalmente succube del mercato pubblicitario, inveisce infine contro i nuovi liberticidi, con la massima evangelica fuori mercanti dal tempio. Serra è troppo intelligente però per non sapere vedere come stanno le cose, allora fa ricorso a un piccolo vecchio artificio retorico, dovendo inveire contro la pubblicità, sceglie come capro espiatorio Giulio Malgara, candidato da Silvio Berlusconi alla presidenza RAI, il quale Malgara peraltro si è subito fatto da parte, eccetera eccetera. Quello che dice Aldo Grasso è soprattutto più avanti. ovvero che nell'evo berlusconiano, messo tra virgolette, la TV italiana nella sua consistente e decisiva porzione reclamistica è interamente colonizzata dalla sinistra, da uno star system tra virgolette comunista. Altro che spot trasgressivi, altro che ambiguità sessuali. Il rifondaiolo Claudio Amendola, splendida icona della TV coatta, da mesi sta reclamizzando i telefonini UMTS e, per non lasciare nulla di intentato, ha tirato dentro anche le sue due figlie in una sorta di familismo mediatico che rimanda ad altri universi musicali e televisivi, con Linus, Albertino, Simona Ventura, la sorella di Super Simo, eccetera. Ai telefonini si stanno dedicando anche Aldo, Giovanni e Giacomo, punto di riferimento non solo comico di tutta una generazione sinceramente democratica cresciuta nel disprezzo del signore di Arcore. Ma il caso più clamoroso riguarda la prima volta della Jalapas Band, alla presa con una banca, coi soldi, verrebbe da dire col cuore del sistema capitalistico. I Jalapi, sempre così duri e puri, sempre attenti al politicamente corretto, sempre profondamente anti-berlusconiani, hanno infine ceduto alle sirene dell'advertising. Prima di cadere in tentazione, ha raccontato uno dei tre, sono però andati dal padre confessore e hanno chiesto notizie sulle buone intenzioni della banca. Avutole però, hanno detto sì. Andiamo avanti nell'analisi dell'egemonia pubblicitaria della sinistra, sembra di sentire Berlusconi. Da anni Claudio Bisio, l'erede di Dario Fola, Edo Di Zelig, il guru della sinistra divertente, reclamizza i call center delle pagine gialle, e Zelig stesso, creato e diretto da Gino Michele, è diventato un formidabile serbatoio di spot, da ficcarra a picone, sempre così anti-americani e ideologici, a fufu Fabrizio Fontana. Enrico Bertolino si dedica anima e corpo a un'assicurazione online, i turisti per caso Susi Bledi e Patrizio Roversi, l'ex via emiliana al comunismo, sponsorizzano il loro detersivo preferito, e così via. Sarebbe interessante capire, giusto per individuare il grado di colonizzazione pubblicitaria a cui siamo arrivati, il ruolo dei telefonini, dei call center, delle banche, delle assicurazioni, dei detersivi e ancora dei telefonini nella trasformazione della società italiana nel suo presumibile imbarbarimento. Ma c'è il rischio di cadere nella vecchia teoria complottista dei persuasori occulti, dura a morire. I pubblicitari guidati da Malgara sono dei loschi signori che hanno inventato tecniche manipolatorie e invisibili. Quei loro messaggi colpiscono l'innocente consumatore e lo condizionano nell'esercizio della spesa. Questi mascalzoni, che hanno fatto tesoro delle lezioni di Freud e di Pavlov, sono un centro di potere occulto dove, attraverso i più sofisticati sistemi di introspezione, mettono a punto maliziose e scellerate tecniche di seduzione. Serra pensa davvero tutto questo? No, davvero, forse si è solo stufato, giustamente, di guardare la TV ed è ricorso a un espediente perbenista: crearsi il mostro per colpirlo più efficacemente. La pubblicità, il Westring, l'Auditel, l'alta velocità, Malgara sono i nuovi nemici del popolo, vanno vietati ai bambini, possibilmente riformati, diceva Marcello Marchesi, è Carosello che traccia il solco, ma è lo spot di sinistra che lo difende. For us to capture all the time. Adesso possiamo chiudere la questione sui blog italiani che lottano per la democrazia, che saremo noi, e parlare invece di un blogger italiano che in questi giorni sta postando direttamente da Londra, ed è Pino Scaccia, che fra le tante cose che racconta, io sono rimasto incuriosito da questo incontro con Chris Leave, questo scrittore che praticamente si è trovato al centro di una vicenda piuttosto macabra, perché ha fatto questo libro che racconta di attacchi kamikaze contro la capitale inglese e che è uscito, guarda caso, proprio il 7 luglio. Ma vabbè, ci tenevo a leggere l'inizio del libro, che si presenta praticamente nella forma di una lettera a Osama Bin Laden. Caro Osama, ti vogliono vivo o morto, così il terrore finirà. Beh, di questo non ne sono tanto certa. Insomma, il rock and roll non è mica finito quando Elvis è morto sul cesso, è solo peggiorato. E subito dopo ti ritrovi con Sonny e Cher e i Dexys Midnight Runners. Ma di loro parlerò dopo. Voglio solo dire che queste cose è più facile cominciarle che finirle. Immagino che a questo ci avrei pensato, no? Sulla tua testa c'è una taglia di 25 milioni di dollari, ma non perdere il sonno a causa mia, Osama. Non ho nessuna informazione che possa portare al tuo arresto o alla tua cattura. Non ho informazioni, punto e basta. Io sono una che tu chiameresti infedele e che mio marito chiamava proletaria. C'è differenza, sai. Ma mettiamo che io abbia messo gli occhi su di te. Mettiamo che ti vedessi alla guida di una Nissan Primera in direzione Hagerston e che facessi una soffiata alla madama. Beh, non saprei come spenderli 25 milioni di dollari. Non è che possa spenderli per qualcuno, visto che tu hai fatto saltare in aria mio marito e mio figlio. È questo che voglio dire. Io non voglio 25 milioni di dollari, Osama, voglio solo che la pianti. Non sarò mica l'unica. Voglio essere l'ultima madre al mondo che si trova a doverti scrivere una lettera di questo genere, che si trova a dover scrivere a te, Osama, del suo figlio morto. A proposito dello scrivere, l'ultima cosa che ho scritto è stata NA, non applicabile, su una domanda di sussidio che richiedeva nome del coniuge o del convivente. Quindi, come vedi, farò del mio meglio, ma tu devi portare un po' di pazienza, perché non sono sta grande scrittrice. Ti scriverò del vuoto che mi ha lasciato portando via. Scrivo che ti potrai guardare dentro la mia vita vuota e vedere che cos'è veramente un bambino della sua razza umana, dalla sua umana. Un numero, una pura astrazione matematica, ma ti capita mai di dare un'importanza esagerata a una sola serata? O a di che segno sei? Così che dando i numeri gli ho dato anche il mio, e dopo stavo come solo sa spassarsela Dio. Ti aspetto un SMS come se piovesse, non mi sembra di essere più in me. E se ho scambiato un numero con un'illusione, non si è trattato di una maledetta stazione. Vabbè, scusate se abbiamo un po' sdrammatizzato adesso con questa bella musichetta che si intitola Se mi scrivi, ma insomma mi sembrava un po' troppo la brutta copia di Luca Sofri, peraltro senza nemmeno saper pronunciare i nomi inglesi. Quindi vorrei chiudere invece con un'altra lettera a Bin Laden, che è quella che appare su, è uno scoop vero e proprio di Indissolvenza, e che è una lettera di Giovanni Lindo Ferretti ad Al Jazeera, però indirizzata appunto a Bin Laden. Ad Osama, l'ho detestata per anni e anni, spesso con malcelata rabbia, a volte con incredula simpatia, perché la sua immagine così rigorosa non poteva non scalfire il mio cuore di vecchio ex panchettone. In realtà non sapevo niente di lei, se non che era nato in una delle più ricche famiglie dell'Arabia Saudita, vera aristocrazia politica, ed era stato allevato per essere dirigente manager, così da contraccambiare con tanta fortuna. So anche che poi ha deciso di cambiare strada e si è lanciato anima e corpo nella lotta armata. Aveva anche cominciato bene con la CIA a Kabul, perché per quel po' di leggenda che ne so. So anche di cani pastori tedeschi e Kalashnikov maremmani, mi auguro non migliorati. Da circa un anno sono sempre più affezionato al suo seguace. Quando sono a casa è un'impresa quotidiana riuscire ad informarmi sulle sue mosse. Abito fuori mano e servizi ritenuti essenziali come Sky TG24 non sono molto efficienti. A me comunque bastano le poche righe che leggo sui giornali, spesso avanzano. Due sono le tensioni determinanti a oggi la mia vita. Irrisolte, forse irrisolvibili, ma da cui non posso prescindere. Una tensione mistico-religiosa, una tensione politico-religiosa. I'm gonna make you mine.